Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis, riprendiamo il nostro viaggio attraverso la buona geotermia per parlare di un caso di grande interesse, quello della città di Milano. Per ragioni meteoclimatiche d'inverno, il capoluogo lombardo ormai è ben noto, è una delle città più colpite dall'inquinamento di polveri sottili. D'estate Milano è una tra quelle città che più soffrono il fenomeno dell'isola di calore. Per tutto l'anno invece un gran numero di drover si occupano di evitare che la falda acquifera salga inondando metropolitane e scantinati. Ebbene, questa sera vedremo come questo terzo problema potrebbe in realtà contenere, almeno in parte, insomma, la soluzione dei primi due, come ci spiegherà appunto il nostro ospite, il professor Giuliano Gabbani del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze. Buonasera Gabbani. Buonasera. Allora Gabbani, c'è questa falda che scorre sotto Milano e che a causa della deindustrializzazione, una volta si consumava moltissima acqua, sta risalendo, costringendo la città a mantenere perennemente accese le idrovore che tra l'altro consumano un bel po' di energia. Allora, dove finisce quest'acqua e che cosa invece lei propone di farci? Il discorso è questo, la possibilità di poter utilizzare quest'acqua che viene Semplicemente scaricata nei navigli una volta che viene prelevata, sì. Prima di buttarla nel naviglio, evidentemente quest'acqua, visto una risorsa che ha una temperatura più o meno costante durante tutto l'anno, di circa 15 gradi, no? Circa 15 gradi, potremmo utilizzarla per raffrescare e riscaldare tramite pompe di calore gli ambienti circostanti alle zone di prelievo. Quindi quest'acqua si prende, per esempio si distribuisce laddove si trovi un condominio vicino a una di queste idrovore e dice bene, passiamo di quest'acqua, questi ci tirano fuori il calore che gli serve, certo, o lo usano come liquido refrigerante a seconda della stagione e poi ributtiamo l'acqua sempre nel naviglio. Certo, no? Sì, l'acqua dopo l'utilizzo a quel punto può essere ovviamente riutilizzata. Ecco, quali sono i benefici di questa prospettiva, di questa cosa? I benefici sono molteplici. Il beneficio immediato è quello del risparmio energetico. Il primo, ovviamente si può risparmiare sia in inverno che in estate, ma soprattutto una cosa importantissima è quella che si può risparmiare un inquinamento di calore che avviene in estate quando esiste una bolla di calore importantissima che viene generata dagli split da condizionatori, no? C'è il famoso effetto dell'isola di calore sulle città che può valere 4, 5, in alcuni casi si arriva addirittura a 10 gradi. Una parte è dovuta a questi condizionatori accesi che buttano fuori aria bollente, no? Quanto si potrebbe? Ma noi abbiamo fatto un po' di conti, tranquillamente un paio di gradi, che sono tantissimo. No, questa è una cosa importantissima. E poi soprattutto è il costo inferiore molto di queste pompe che rispetto ai sistemi tradizionali. Sistemi tradizionali, tanto per fare un esempio, facevamo dei conti su delle sedimenti nuovi, mettiamo quattro villette adiacenti fra loro, possono tranquillamente costare tutto l'impianto sia di condizionamento che di riscaldamento ed acqua sanitaria più o meno paragonabile allo stesso impianto fatto con sistemi tradizionali, caldaia a gas anche quelli e condizionatori tradizionali. Poi questi sono per lo più le pompe di calore, sono alimentate elettricamente, quindi non ci sarebbero emissioni, sarebbe veramente un contributo strutturale alla riduzione, no, di inquinamento. Ecco, quindi costi impiantistici simili, ma poi in termini di costi di gestione quanto fanno risparmiare queste soluzioni geotermiche? Costi di gestione sono, per esempio, un geotermico completo, quindi raffrescamento, raffreddamento e acqua sanitaria, può venire a costare sulle 400-500 euro all'anno a confronto di un 1000 qualcosa rispetto al tradizionale. Ok, quindi si dimezzano sostanzialmente i costi di gestione. Insomma, diciamo che la geotermia in sé è molto efficiente, è anche costosa, ma è molto efficiente, però in situazioni particolari come Milano, dove non c'è neanche bisogno di andare a scavarsi il buco, è quasi criminale, diciamo, non farla. Ecco, possiamo dire così. C'è tra l'altro proprio un caso specifico a Milano che riguarda un'abbazia, noi siamo pieni in realtà poi di costruzioni di questo genere. C'è l'abbazia di Chiaravalle, sì? che necessita di un pompaggio importante perché ha dei problemi di abbattimento della falda. Perché sì, come abbiamo spiegato, certo. Sì, risale crea dei problemi di subsidenza e poi anche di insalubrità dell'aria. Per cui abbiamo visto che lì con una ventina di pompe di calore, con quindi una spesa simile a quella che servirebbe per abbattere la falda, si può tranquillamente condizionare tutta l'abbazia migliorando la salubrità del luogo, conservando gli affreschi, tutto quello che c'è dentro, quindi diventerebbe una cosa molto virtuosa. Va bene, grazie professor Giuliano Gabbani. Prego, arrivederla. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani.